Il cavallo di Hayley, puledro molto ombroso, diedesi a nitrire menarcalci a tirare la cavezza. Oh, disse Samuele, tanto per maloso? E la sua nera faccia si atteggiò un'espressione curiosa di malignità. Ora ti acquieto io. Un frondoso faggio adombrava il terreno, tutto sparso ancora di fagiole triangolari. Samuele, con uno di questi frutti tra le dita, s'accosta al puledro, lo carezza, lo palpa e finge di adoperarsi a calmarne l'agitazione. Poi, col pretesto di aggiustare la sella, introduce destramente la fagiola tra essa e il fianco dell'animale in modo che il minimo peso doveva irritarne la sensibilità nervosa, senza lasciare alcuna traccia o spelatura. Eccolo domato, disse egli con un riso di maligna soddisfazione. In quel momento la signora Shelby si affacciò al balcone e gli fe cenno di appressarsi. Samuele obbedì con quella premura ossequiosa con cui un postulante sollecita il conseguimento di una grazia a St. James o a Washington. Perché te ne stai lì a fare il poltrone, Samuele? Andy non ti ha detto di spicciarti? Dio vi benedica, signora. I cavalli non si lasciano prendere tutte le volte che si vorrebbe. Erano alla pastura, nel basso, e sa Dio quanto lontano. Samuele! E ti ho sempre da ripetere che non si deve esclamare a ogni tratto Dio vi benedica e sa Dio? È un'espressione da adoperarsi con molto riguardo. Oh, Dio vi benedica! L'avevo dimenticato, signora, non lo dirò mai più. Ecco, l'hai detto di nuovo. L'ho detto? Ma buon Dio, per verità, io non ne avevo intenzione. Via, via, un'altra volta starai più attento. Sì, certo, padrona. Lasciatemi riprendere fiato un momento e parto subito. Va bene, Samuele. Partirai col signor Haley per indicargli il cammino e aiutarlo nelle sue ricerche. Abbi ogni cura dei cavalli. Sai che la settimana passata Jerry zoppicava da un piede, non la far correre troppo. La signora Shelby disse queste ultime parole abbassando la voce, ma in modo da far ben capire la sua intenzione. Padrona, fidatevi del vostro nero, disse Samuele muovendo gli occhi con aria di intelligenza. Dio sa. Ah, non volevo dirlo! Esclamò ritenendo il suo respiro con un comico gesto di apprensione che fece ridere, suo malgrado, la signora Shelby. Sì, padrona, avrò tutta la cura possibile dei cavalli. Vedi tu, Andy, disse Samuele, tornando presso i cavalli sotto il faggio, non sarei punto maravigliato che la bestia di quel signore gli facesse qualche brutto scherzo. Sai bene, Andy, come sono questi animali? Continuò toccandolo col gomito in segno di tacita confidenza. Esclamò Andy come chi afferra improvvisamente un'idea. Sì, appunto, ci hai colto, Andy. La signora brama che si facciano le cose a Bellagio, io l'ho capito subito. Bisogna aiutare il caso, solo che noi lasciamo pascolare e galoppare un po' con le nostre bestie sull'erba. Io giurerei che passerà un bel tratto prima che il messere si ponga in cammino. Andy fece una sghignazzata. Capisci bene, Andy? Qualora il cavallo del messere faccia brutte smorfie per lasciarsi montare, noi piantiamo lì i nostri per corrergli in aiuto. Bisognerà vedere come lo aiuteremo. E tosto, Andy e Samuele, beati della loro intesa, si abbandonarono alle più matte risa, facendo scoppiettare le dita e sgambettando con sfrenata allegrezza. Hayley si affacciò alla veranda. Alcune tazze di ottimo caffè lo avevano rimesso di buon umore e gli veniva fuori sorridendo e canticchiando. Andy e Samuele, dando di piglio a certe foglie di palma intrecciate che solevano portare in testa a guisa di cappello, corsero verso i cavalli. Il copricapo di Samuele non era nel migliore stato possibile e le sue foglie a punta gli svolazzavano intorno alla testa, dandogli una certa aria di indipendenza disordinata e di fierezza. Andy poi si calcò il suo in testa con un atto disinvolto che pareva volesse dire: come ognuno può vedere, ho un cappello. Su via, ragazzi, gridò Hayley, andiamo, non perdiamo più tempo. Eccoci pronti, signore, disse Samuele ponendo la briglia in mano di Hayley e tenendo la staffa mentre Andy slegava gli altri due cavalli. Non appena Hayley ebbe toccato la sella, un improvviso sbalzo dell'ombroso animale lo lanciò a gambe levate sull'erba. Tosto Samuele, mandando alte grida, si gettò sulle redini, ma accadde che in quell'atto gli batté le sue foglie di palma negli occhi del cavallo, il quale, più irritato che mai, rovesciò il nero e, mettendo nitriti sdegnosi, partì come uno strale dirigendosi verso l'estremità della pianura. Bill e Jerry, che Andy, secondo il convenuto, non aveva dimenticato di lasciar liberi, si dettero alla fuga per conto loro, spaventati dagli urli che i due neri mandavano. Allora seguì una scena di indescrivibile confusione. Samuele e Andy strillavano e correvano a guisa di smemorati qua e là. I cani abbaiavano. Jake, Moses, Mandy, Fanny, tutti insomma i negrettini della casa, si slanciarono dietro le loro orme, battendo le mani, urlando e mostrando uno zelo più intempestivo che utile. Il cavallo di Hayley pareva che entrasse nello spirito di quella scena e ci provasse un gusto matto. Esso andava di piccol trotto per la vasta prateria e quando qualcuno gli era vicino e stava per mettergli addosso le mani, spiccava un salto rapidamente e andava a cacciarsi in un sentiero del bosco. Gli sforzi di Samuele per impedire che i cavalli fossero ripresi presto furono veramente eroici. Come la spada di Riccardo Cuordileone, che vedevasi brillar sempre nel più caldo della mischia, così le foglie di palma sulla testa di Samuele sempre svolazzavano quando vedeva il cavallo in pericolo di essere ripreso. Egli gridava allora a tutta gola: eccolo qua, su, piglialo, piglialo! Per modo che riusciva a farlo fuggire più veloce. Egli correva di qua e di là bestemmiando, sbuffando e battendo la terra coi piedi. Invano il signor Shelby dall'alto del balcone dava loro i suoi avvertimenti e consigli, mentre assisa al canto della finestra sua moglie poteva a stento frenar le risa, non senza sospettare alcun poco la cagione di tutto quel trambusto. Alla fine, verso il mezzogiorno, Samuele comparve trionfalmente montato sopra Jerry e seco traendo il cavallo di Hayley. La bestia era tutta grondante di sudore, ma il lampeggiare dei suoi occhi e le sue narici dilatate facevano abbastanza conoscere che il suo spirito di indipendenza non era ancora domo. «È preso!» esclamò. «È preso! Se non ero io, tutti quanti vi si sarebbero affaticati inutilmente, ma io l'ho saputo prendere!» «Tu!» borbottò Hayley in maniera poco amichevole. «Se non fossi stato tu, tutto questo malsano non sarebbe avvenuto!» Oddio vi benedica, gridò Samuele atteggiato a finta sottomissione. Non ho forse corso abbastanza? Non mi sono sfiancato per servirvi? Guardate un po' come sono tutto in sudore. Via, via, tu mi hai fatto perdere 3 buone ore con le tue maledette bindolerie. Presto, incamminiamoci e non mi fare più tali giochi. Ma signore, disse Samuele con voce supplichevole, voi dunque volete ammazzarci tutti, le bestie e noi? Noi siamo stanchi e rifiniti e questi poveri animali sono tutti inzuppati di sudore. Il signore non vorrà partire prima del pranzo, è ben certo. Il cavallo del signore ha bisogno di essere strigliato, vedete com'è tutto coperto di fango? E Jerry si è azzoppata. La padrona non vorrebbe lasciarci partire per ora. E poi, sentite bene, signore, non è da temere che Lisa ci scappi. Ella non è mai stata forte per camminare a lungo, credetelo a me. La signora Shelby, che con sua gran soddisfazione aveva udito il colloquio dalla veranda, scese in questo momento a raggiungere gli interlocutori, ben risoluta di far la sua parte. Espresse molto urbanamente a Hayley quanto l'avesse commossa quell'incidente e lo pregò di rimanere a pranzo, accertandogli che si sarebbe incontanente messo in tavola. Tutto ben considerato, Hayley, con una certa malagrazia, se ne tornò alla sala, mentre Samuele, volgendo gli occhi su lui con espressione ironica, menò le bestie nella stalla. Hai visto? Andy, hai visto? Disse Samuele appena furono giunti in luogo sicuro. Dio buono, io mi sono divertito come a un meeting a vederlo saltare, pestare e bestemmiare dietro a noi. Strilla, bestemmia, vecchio mio, dicevo tra me, acchiappa il tuo cavallo se puoi. Altrimenti aspetta che io te lo riconduca. Che bella scena, mi pare ancora di vederlo, Andy. E ambedue, appoggiati al muro del granaio, si tenevano il ventre dalle risa. Che aria da infuriato aveva quando gli ho ricondotto il cavallo. Mi avrebbe mangiato vivo se avesse potuto. E io che facevo il sempliciotto. Vedevi? Sì, davvero. E la padrona, vedevi come rideva di soppiatto alla finestra? Io no, tanto ero trafelato. Vedi, figliuolo mio, disse Samuele gravemente, strigliando il cavallo di Hayley, io ho acquistato una certa abitudine di ciò che si potrebbe chiamare osservazione. È una cosa di gran rilievo, Andy, e ti esorto a coltivarla mentre sei giovane. Vedi, Andy, l'osservazione è quello che forma la differenza tra nero e bianco. Non mi ero già accorto da quale lato spirava il vento stamattina. Non ho indovinato il pensiero della padrona senza che ella mi dicesse cosa alcuna. Ecco in che consiste l'osservazione. È una specie, come si direbbe, di facoltà. Non è data a tutti, ma chi la coltiva può far molto. Mi pare però, replicò Andy con un certo acume, che se io non avessi aiutato questo tuo spirito di osservazione non saresti stato così chiaroveggente. Andy, tu sei un giovane che prometti molto, è innegabile. Io ho una buona opinione di te, perciò non arrossisco di giovarmi di qualche tua idea. Ma adesso torniamocene insieme a casa, dove scommetto che la nostra padrona ci riserva qualche bocconcino buono. E così dicendo, i due neri si avviarono alla casa per pranzare prima di porsi con Hailey sulle tracce di Elisa. 7. Le angosce di una madre. Nessuno potrebbe immaginarsi una creatura più desolata e afflitta della povera Elisa quando si allontanò dalla capanna dello zio Tom. Il pensiero dei patimenti e dei rischi ai quali era esposto suo marito e dei pericoli che minacciavano suo figlioletto si univa all'ambascia da lei provata nell'abbandonare l'unica famiglia che avesse mai conosciuta e nel perdere la protezione di un'amica che ella aveva sempre amata e rispettata. Inoltre, tutto pareva che le desse un malinconico addio. I luoghi che l'avevano veduta crescere, gli alberi sotto la cui ombra ella aveva tante volte folleggiato, i boschetti dove in giorni più felici aveva passato tante belle sere passeggiando col suo giovane sposo. Tutto ciò che discerneva in quella limpida e fredda notte stellata sembrava farle un rimprovero di ingratitudine e chiederle ragione di quell'abbandono. Ma su tutti gli altri sentimenti prevaleva in lei l'amore materno, reso più smanioso dall'imminenza del tremendo pericolo. Il ragazzo era abbastanza grandicello per camminare dietro a sua madre e in qualunque altra occasione ella lo avrebbe condotto per mano, ma a quell'ora il solo pensiero di deporlo a terra la faceva rabbrividire e nella impetuosa fuga lo stringeva al seno con una forza convulsa. Il gelo, onde era coperta la terra, le scricchiolava sotto i piedi e a questo rumore la sussultava di spavento. Il tremare di una foglia, il vacillare di un'ombra le faceva rifluire il sangue verso il cuore ed ella accelerava la corsa. Si stupiva della forza che le era cresciuta davvero a mille doppi, poiché il peso del suo bimbo le pareva quello di una piuma. L'aculeo della paura aumentava ogni momento la forza soprannaturale da cui ella era spinta. Intanto le sue labbra scolorite si aprivano ad ogni tratto per invocare l'assistenza del supremo protettore. Signore aiuto, signore salvatemi voi che potete, diceva lei. Il bimbo dormiva. Da principio la novità e il timore lo tennero desto, ma la madre suaratteneva perfino il fiato e gli diceva sì spesso che se stava quieto lo salverebbe, che egli le si avvinghiò strettamente al collo, né più parlò, se non per domandarle, quando si sentiva cascar dal sonno, mamma, è necessario che io mi tenga desto? No, gioia mia, dormi se ne hai voglia. Ma se dormo, mamma, non mi lascerai portar via? No, se Dio m'aiuta, disse la madre, diventata più smorta in viso e coi grandi suoi occhi neri splendenti di più viva luce. Ne sei ben certa, non è vero, mamma? Sì, ben certa, ripeté la madre con voce di cui ella stessa si maravigliò perché le parve che le venisse da uno spirito interno che non faceva parte di lei stessa. E il fanciullo lasciò ricadere la sua testa assonnata sopra la spalla della madre. Oh, come il calore di quelle piccole braccia, il soave respiro che ella si sentiva alitar sul collo aggiungevano fuoco e coraggio alla sua corsa. Ogni movimento del tranquillo bambino addormentato le comunicava una specie di energia elettrica. È tale l'impero dello spirito sul corpo che per alcun tempo vale a rendere le carni e i nervi insensibili e a dar loro una tempra d'acciaio fino al punto di cambiare in forte il debole. I limiti della fattoria, il boschetto, il bosco le passarono come un turbine, tanto rapido era il suo cammino, lasciandosi poi addietro uno dopo l'altro i luoghi che le erano familiari. Ella continuò senza posa fino a che i primi chiarori dell'alba la sorpresero sulla strada maestra, ben lungi da tutto ciò che ella conosceva. Spesso si era recata con la sua padrona a visitare alcune famiglie in un piccolo villaggio poco distante dall'Ohio e sapeva bene la strada. A quel villaggio e al grosso fiume che si proponeva di attraversare terminava il suo piano di fuga. Al di là, ella poneva ogni sua speranza in Dio. Quando sulla strada cominciarono a comparire cavalli e vetture, ella, con quella pronta perspicacia che è propria di uno stato di agitazione e che potrebbe dirsi una specie di ispirazione, si avvide che il suo camminare frettoloso e il suo aspetto turbato potevano attirare su lei osservazioni e sospetti. E Elisa pose allora in terra il fanciullo e, rassettandogli le vesti e la berretta, camminò tanto lesta quanto poteva fare senza dar troppo nell'occhio. Non aveva dimenticato di porre in un fagottino mele e focacce che le erano d'aiuto per affrettare i passi del bimbo, rotolando ella le mele dinanzi a lui fino a qualche distanza, di mano in mano che gli correva loro appresso con tutte le sue forze. Con tale astuzia, sovente ripetuta, percorsero più di mezzo miglio. Entrarono quindi in un fitto bosco attraverso il quale mormorava un limpido ruscello. Siccome il fanciullo si lagnava di avere fame e sete, ella scavalcò la siepe e, seduta dietro un masso che la nascondeva agli occhi dei passanti, gli diede una colazione tolta dalle sue provviste. Il bambino voleva che ella pure mangiasse, ma quando, mettendole intorno al collo le braccia, tentò di introdurle in bocca un pezzetto della sua focaccia, ella si sentì venir meno il respiro e credette d'essere sul punto di affogare. «No, no, Enrico, dolce amor mio, la mamma non può mangiare fino a che non ti ha recato in salvo. Bisogna che andiamo innanzi, innanzi, finché giungeremo in riva al fiume». E si ripose in cammino, sforzandosi di andare oltre con passo misurato e composto. Aveva passato già di parecchia miglia tutti i dintorni dove poteva essere riconosciuta. Pensava, peraltro, che seppure facesse qualche incontro, la fama di bontà della famiglia Shelby renderebbe impossibile la supposizione che ella ne fosse fuggita. E siccome tanto lei che il fanciulletto erano di carnagione prossima al bianco, tanto da poter sfuggire al sospetto di appartenere a una razza di colore, salvo un attento esame, le riusciva più facile passare oltre senza essere osservata. Rincuorata da questa speranza, si fermò verso il pomeriggio presso una bella fattoria per riposarvisi alquanto e comperare qualche cibo per sé e per il fanciullo. Poiché quanto più il pericolo diminuiva a mano che si allontanava, la soprannaturale tensione del suo sistema nervoso andava calmandosi ed ella si sentiva mancare di stanchezza e di fame. La padrona della fattoria, buona e graziosa donna, parve ben lieta d'aver qualcuno con cui scambiare due parole e non chiese altro dei fatti di Elisa, quando ebbe udito che faceva un viaggetto per andare a passare una settimana presso alcuni suoi amici, il che in cuor suo augurava fosse vero. Un'ora prima del tramonto, ella entrò nel piccolo villaggio cui era diretta, sfinita, spedata, ma forte ancora di coraggio. Il primo suo sguardo fu rivolto all'Ohio che, come il Giordano, la separava dalla terra promessa. Erano i primi giorni di primavera e il fiume volgeva gonfio e torbido. Grandi masse di ghiaccio galleggiavano qua e là poderosamente in quelle acque fangose. A cagione della forma particolare della sponda del Kentucky, il cui terreno s'avanzava molto nell'Ohio, una grande quantità di ghiaccio era accumulata in quel luogo. Lo stretto canale formato dal fiume era ingombro di ghiacci enormi che quasi a modo di zattere coprivano tutta la superficie della fiumana e si stendevano fino a toccare la sponda del Kentucky. Elisa si soffermò un istante a contemplare quello spettacolo non troppo grato per lei, poiché comprese subito che la barca per attraversare il fiume doveva aver interrotto il servizio consueto. Si risolse dunque di entrare in una piccola locanda presso la riva per procurarsi informazioni. Lo stessa, tutta intenta alle faccende della cucina dove preparava il pasto della sera, si voltò senza deporre la forchetta che aveva in mano quando Elisa le si rivolse con la sua voce soave e lamentevole. «Che c'è?» disse ella. «Non c'è qui una barca o una zattera per passare sull'altra riva?» «No, davvero», rispose la donna, «le barche non tragittano ora». L'inquietudine e lo scoraggiamento che si leggevano in volto a Elisa diedero nell'occhio alla sua interlocutrice, che soggiunse con un piglio di curiosità: «Voi vorreste tragittare il fiume, non è vero? Avete qualcuno dei vostri malato? Mi sembrate addolorata». «Ho un figlio in gran pericolo», disse Elisa, «l'ho saputo soltanto la notte scorsa e vengo da molto lontano nella speranza di passare con la barca». «Oh, veramente una sventura!» esclamò la donna, le cui materne simpatie si erano risvegliate. «Me ne duole sinceramente per voi!» E mettendo il capo alla finestra gridò: «Salomone!» Un omaccione col grembiale di cuoio e con le mani sudice comparve sull'uscio. «Dite un poco, Salomone!» continuò la donna. «Credete che quell'uomo stasera porti i barili?» «Ha detto che tenterebbe il passaggio ove gli sembrasse di potersi arrischiare», rispose colui. Non lungi di qui c'è un uomo che passerà il fiume stasera per recare alcune merci, seppur non si lascia scoraggiare. Egli verrà qui a cena, non potreste far altro di meglio che sedervi e attenderlo. Che bel bambino! Ella soggiunse offrendogli una focaccetta. Ma il fanciullo, interamente spossato, piangeva di stanchezza. Povero piccino, non è avvezzo a camminare molto, io invece l'ho fatto tanto sgambettare, disse Elisa. Allora ha bisogno di un po' di riposo, suggerì la donna aprendo l'uscio di una cameruccia nella quale trovavasi un buon letto. Elisa portò il proprio figlio sopra il letto e tenne le piccole mani di lui entro le sue fino a che si addormentò. In quanto a lei, il riposo non era possibile, il pensiero di essere inseguita la stimolava a fuggire. Consumandosi d'impazienza, ella guardò a lungo le acque lente e rigonfie che si stendevano tra lei e la libertà. Ed ora, prendendo breve commiato da lei, teniamo dietro le mosse di coloro che la inseguono. La signora Shelby aveva promesso che il pranzo quanto prima sarebbe allestito, ma si poté vedere in questa occasione, come in molte altre si vede, che per concludere un mercato bisogna essere più d'uno. Cosicché, quantunque l'ordine fosse stato dato in tutta regola, e benché Haley con le sue proprie orecchie l'avesse udito, e mezza dozzina almeno di giovani messaggeri lo avessero portato alla zia Chloe, questa dignitaria aveva preso un atteggiamento oltremodo stizzoso e, brontolando e crollando il capo, proseguiva le sue operazioni con una lentezza e una malagrazia veramente insolite. Ad ogni modo, sembrava che tutti i servi della casa supponessero che la padrona non s'avrebbe poi tanto a male di quei ritardi, ed era una maraviglia il succedersi non interrotto di tristi casi che attraversavano il corso delle faccende. Uno sguattero ebbe a rovesciare la salsa e bisognò mettersi a comporla di nuovo con la debita cura. La zia Chloe, vegliando a tutto, governando ogni particolarità della cucina con una burbera precisione, altro non rispondeva ai suggerimenti che le venivano dati perché si spicciasse, se non che ella non era tal donna da mandare in tavola una salsa malcotta perché altri potesse correre dietro ad una misera schiava. Uno dei servi inciampò con la secchia ricolma e dovette tornare ad attingere acqua alla fontana, un altro nella serie delle disgrazie gettò per terra tutto il burro. Di quando in quando scoppiavano dalla cucina sghignazzate insultanti se taluno veniva a dire che Haley pareva tormentato dalla maggior noia del mondo, che non poteva star fermo sulla seggiola e che andava e veniva da una finestra all'altra o lungo il portico. «Chi sta bene?» diceva la zia Chloe sdegnosamente. «Incontrerà peggio uno di questi giorni se non si emenda. Quelli che è il suo vero padrone lo chiamerai, allora si vedrà qual faccia sarà la sua». «Egli andrà all'inferno addirittura», disse il piccolo Jake. «E ne è ben degno», soggiunse la zia Chloe. «Molti e molti cuori egli ha spezzati, ve lo dico io», continuò sollevando la mano armata di una forchetta. «Gli è come ciò che il padroncino Giorgio ci leggeva nel libro delle rivelazioni. Le anime gridano di sotto all'altare. Esse gridano al Signore per aver vendetta. E presto il Signore l'esaudirà. Oh, sì, l'esaudirà». La zia Chloe era talmente venerata nella cucina che tutti l'ascoltavano a bocca aperta e trovandosi allora il pranzo finalmente imbandito, tutti gli inservienti e gli sguatteri ebbero agio di cicalare con lei e di ascoltare le sue osservazioni. «Egli arderà per sempre, non è vero?» domandò Andy. «Sarei ben contento di vederlo, ve l'assicuro», disse il piccolo Jake. «Figliuoli», fece una voce che li scosse tutti. Era lo zio Tom che entrava in quell'istante e aveva udito le loro ultime parole. «Temo che non sappiate nemmeno quello che vi dite. Per sempre è un detto terribile, miei cari, è una cosa tremenda a pensare. E voi non dovreste desiderare ciò per nessuna creatura umana». «Non vorremmo vedervi che questi trafficanti d'anime», disse Andy, il quale non poteva fare a meno di augurarlo loro. «Sono gente così vile e scellerata». «Non sembra che la natura stessa gridi contro di loro», replicò la zia Chloe. «Non strappano essi il lattante dal seno della propria madre per venderlo? E i fanciulletti che strillano attaccati alla sua veste non li pigliano essi a forza, spietatamente, per farne traffico? Non dividono forse il marito e la moglie?» E cominciò a piangere. «E non è questo come se togliessero loro la vita? E ciò forse reca ad essi il minimo rincrescimento, non se la sbevazzano, eh? Non fumano, non si danno buon tempo mentre fanno tali cose. Signore Dio, se il diavolo non se li ghermisce, che è buono a fare?» E la zia Chloe si coprì il viso col grembiule, dandosi a singhiozzare senza ritegno. «Pregate per coloro che vi perseguitano», riprese a dire lo zio Tom. Così trovasi scritto nel buon libro. Pregare per essi? Esclamò la zia Chloe. Signore Dio, è cosa troppo dura, io non posso pregare per essi. È la natura che in te parla, Chloe, disse Tom. E la natura è forte, ma anche più forte è la grazia del Signore. D'altra parte, considera in quale stato orribile deve trovarsi una povera creatura che può fare di tali cose. Ringrazia piuttosto il Dio di non essere come lui, o Chloe. Per certo io preferirei d'essere venduto 1.000 volte anziché avere sulla coscienza tutto il male commesso da quello sventurato. E io no, forse, disse Jake. Anche noi pensiamo lo stesso, non è vero, Andy? Andy alzò le spalle e fece udire un sibilo di approvazione. Sono contento, disse Tom, che il padrone non sia uscito stamani come mi aveva mostrato intenzione, benché la cosa sarebbe stata naturale. Tuttavia, ciò avrebbe dato un cordoglio inesprimibile a me, che lo conobbi da piccolino. Ma ho veduto il padrone e comincio a sentirmi un po' riconciliato con la volontà di Dio, giacché il padrone non poteva impedire ciò. Egli ha fatto bene, ma temo che le cose vadano alla peggio quando io non sarò più in questa casa. Nessuno può pretendere che il padrone basti a sorvegliare tutto come facevo io e attenda ad ogni cosa. Gli altri hanno buona volontà, ma sono negligenti al sommo grado. Ecco ciò che mi conturba. Qui la campana suonò e Tom fu chiamato in sala. Tom, gli disse con gran bontà il suo padrone, additandogli Haley. Tu devi sapere che ho promesso a questo signore un compenso di 1.000 dollari, qualora tu non ti trovassi pronto quando egli avrà bisogno di te. Ora, egli se ne va per altri suoi affari, tu puoi spendere le ore di questa giornata come credi meglio. Profitta dunque a tuo piacere della concessione, figliuolo mio. Grazie, padrone, disse Tom. E ricordati bene, soggiunse Haley, che non si deve fare al tuo padrone una delle vostre solite burle da neri, perché se non sei al tuo posto io pretenderò il denaro fino all'ultimo quattrino. Se egli volesse darmi ascolto, non si fiderebbe né di te né di alcun altro. Padrone, rispose Tom rivolgendosi al signor Shelby, io avevo precisamente 8 anni allorché la mia defunta padrona vi pose nelle mie braccia e voi non avevate ancora un anno. Tom, disse ella, ecco il tuo padroncino, abbine ogni più attenta cura. E adesso dite, padrone, non vi fui sempre fedele, vi ho mai disobbedito in alcuna cosa, specialmente da che sono divenuto cristiano. Shelby era tutto commosso e gli occhi gli si inumidirono di lacrime. Mio buon figliolo, disse egli, Dio sa che tu dici la verità, e se io avessi modo di aggiustare le cose, altrimenti il mondo intero non ti pagherebbe. E quanto è vero che io sono cristiana, disse la signora Shelby, tu sarai riscattato non appena io abbia potuto mettere insieme quanto bisogna. Indi, rivolta a Haley, disse: Signore, prendete ben nota della persona che lo comprerà e poi fatemela conoscere. Volentieri, disse il trafficante, del resto io posso condurlo in buono stato fra un anno e rivenderlo a voi stessa. E io lo ricomprerò allora e voi ci avrete il vostro bel vantaggio, disse la signora Shelby. Va benissimo, per me è tutt'uno. O ci sia da scendere o da risalire al fiume, che importa. Basta che gli affari vadano prosperamente. Io cerco di campar la vita come fa ogni altro, capite bene? I coniugi Shelby erano ambedue stanchi e umiliati della familiarità impudente di Haley e non di meno entrambi vedevano l'assoluta necessità di contenersi. Quanto più egli si mostrava duro e sordo, quanto più la signora Shelby temeva che gli potesse venir fatto di raggiungere Elisa e il suo fanciullo, e tanto più ella moltiplicava per ritenerlo i suoi donneschi artifici. Sorrideva ogni tanto graziosamente, approvava i detti di lui, gli teneva discorso con modi familiari e faceva di tutto perché non badasse allo scorrere del tempo. Alle 2, Samuele e Andy condussero i cavalli, ai quali la scappatella del mattino aveva dato maggior lestezza e vigore. Samuele, tutto infervorato dal pranzo, pieno di zelo e di officiosità, era là pronto. Quando Haley si avvicinò, Samuele discorreva con fiorita eloquenza dell'infallibile buon successo della corsa che ora ben da senno stavano per fare. Il tuo padrone, suppongo, non ha cani, disse Haley sbadatamente, mentre si disponeva a montare in sella. Cani? Anzi, ne ha molti, disse Samuele baldanzosamente. Guardate, questo Bruno è un eccellente abbaiatore e del resto noi altri neri abbiamo quasi tutti un cane. Poh, fece Haley e soggiunse alcunché in proposito dei cani. Samuele borbottò fra i denti: Non vedo perché si abbiano a maledire queste povere bestie. Ma il tuo padrone non tiene alcun cane per seguire i neri alla traccia? Samuele comprese perfettamente che cosa egli volesse dire con ciò, ma assunse un tale aspetto di semplicità da non sperarne soddisfacenti risposte. Tutti i nostri cani fiutano da lontano stupendamente e sono della specie migliore, benché non abbiano ancora molta pratica. Ad ogni modo sono cani bravissimi, per qualunque servizio vi siano ben lanciati. Qua, Bruno! Gridò e fece un acuto fischio per presentargli un saggio della truppa canina. Subito un cane di Terranova corse verso loro. Va alla forca, disse Haley montando a cavallo. Andiamo presto, in sella e via. Samuele obbedì, ma nello spiccare il salto gli riuscì destramente di solleticare Andy, il quale non poté fare a meno di dare in uno scoppio di risa, con gran collera di Haley, che gli assestò un colpo di scudiscio. Mi stupisco molto di te, disse Samuele con una gravità imperturbabile. Si tratta di un affare serio, Andy, non è tempo da ragazzate. Così non si aiuta il signore. È meglio andare di filato al fiume, disse risolutamente Haley quando furono giunti ai limiti della tenuta. Io so molto bene dove si rivolgono tutti coloro, essi non tendono che al di là. Certo, disse Samuele, e appunto così il signore ha colto proprio nel segno. Ma vi sono due strade che mettono al fiume, il sentiero di traverso e la strada maestra. Ora, quale delle due piace al signore di prendere? Andy guardò Samuele con aria da scimunito per la maraviglia di sentire codesto nuovo fatto geografico, ma s'affrettò a confermare con tutta prontezza quell'asserzione. Per conto mio, soggiunse Samuele, inclino a pensare che Lisa abbia scelto la via di traverso perché è la meno frequentata. Haley, benché fosse un vecchio volpone e naturalmente disposto a sospettare delle intenzioni altrui, ora si sentì propendere per l'avviso del nero. Se non foste ambedue mentitori diabolici, disse egli tutto pensoso, fermato che si fu un istante per riflettere. L'accento di serietà con cui egli aveva detto queste parole sembrò che esilarasse stranamente Andy, il quale si tenne un po' indietro e dimenavasi in modo che pareva lì lì per cadere da cavallo, mentre il volto di Samuele conservava imperturbabilmente la più perfetta gravità. Il signore può far ciò che crede, disse Samuele. Può prendere la strada diritta se gli aggrada di più. Per noi è lo stesso, anzi. Più ci penso e più credo che la via diritta sia quella che bisogna prendere. Ella avrà preso naturalmente la meno frequentata, disse Haley, parlando a voce alta fra sé e non badando punto all'osservazione di Samuele. Ah, chi potrebbe indovinare su questo proposito? Disse Samuele. Le donne sono bizzarre, non fanno mai nulla di ciò che altri suppone. Le donne hanno lo spirito della contraddizione, e perciò, se voi credete che se vadano da una parte, è ben certo che farete bene a correre dall'altra per raggiungerle. Ora, la mia propria opinione è che Lisa abbia scelto la via peggiore, onde io credo che sarà meglio per noi tenere la via ordinaria. Questi profondi concetti in generale sul sesso femminile non disposero gran fatto Haley a prendere il consiglio di Samuele. Anzi, egli dichiarò subito che prenderebbe la via di traverso e domandò a Samuele quanto tempo ci voleva per giungervi. Oh, pochi passi ancora e ci siamo, rispose Samuele ammiccando con l'occhio che era dalla parte di Andy e soggiunse gravemente: Ma io ho riflettuto bene, vedo chiaro che non dobbiamo andare per questa via, non la conosco affatto, è sempre solitaria e potremmo per essa sviarci troppo dal nostro cammino. Dove si anderebbe allora? Dio soltanto lo sa. Eppure, disse Eli, io voglio andare per quella. Ora che ci penso, mi pare di aver sentito dire che essa è chiusa da muricciuoli presso il fiume, non è vero, Andy? Andy non ne aveva certezza, solo aveva sentito parlare di quella strada, ma non v'era mai passato. Ad ogni modo, non volle arrischiarsi a rispondere. Haley, che era avvezzo a pesare le probabilità fra menzogne più o meno grosse, risolvé di prendere la via meno frequentata. Credeva che Samuele avesse prima parlato all'impensata e che i replicati sforzi per dissuaderlo poi dal seguirla non fossero se non studiate menzogne a pro della fuggitiva. Perciò, quando quegli l'ebbe indicata, Haley vi si cacciò prontamente, seguito da Samuele e da Andy.